Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 10. Cornelio Centurione per comando di un angelo manda a chiamar Pietro, il quale con la visione del lenzuolo avendo inteso, doversi ammetter le genti al Vangelo, va a trovarlo. E disceso lo Spirito Santo sopra tutti quelli, che udivano le sue parole, ordina, che siano battezzati. Ed era in Cesarea un uomo, chiamato Cornelio, centurione di una corte detta l'italiana, religioso, e timorato di Dio, come tutta la sua casa, il quale dava molte limosine al popolo, e faceva orazione a Dio assiduamente. Ed egli vide chiaramente in una visione circa la nona ora del divenire a sé l'angelo di Dio, e dirgli, Cornelio. Ma egli fissamente mirandolo, preso dalla paura, disse, che è questo, Signore? E quegli rispose, le tue orazioni, e le tue limosine sono salite a memoria nel cospetto di Dio. E adesso spedisci qualcheduno a Gioppe a chiamare un tal Simone soprannominato Pietro, questi è ospite di un certo Simone cuoiaio, che ha la casa vicino al mare, egli ti dirà quel che tu debba fare. E partitosi l'angelo, che gli parlava, chiamò due dei suoi servitori, e un soldato timorato di Dio, di che erano ad esso subordinati. E raccontata a questi ogni cosa, gli spedì a Gioppe. Il di seguente essendo questi in viaggio, e approssimandosi alla città, Pietro salì alla parte superiore della casa per far orazione circa l'ora di sesta. E avendo fame, bramò di prender cibo. E mentre glielo apparecchiavano, fu preso da un'estasi, e vide aperto il cielo, e venir giù un certo arnese, come un gran lenzuolo, il quale legato pei quattro angoli veniva calato dal cielo in terra, in cui eravi ogni sorta di quadrupedi, e serpenti della terra e uccelli dell'aria. E udì questa voce, via su, Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro, disse, no certamente, o Signore, concio sia che non ho mai mangiato niente di comune, ed impuro, e di nuovo la voce a lui per la seconda volta, non chiamar tu comune quello, che Dio ha purificato. E questo seguì fino a tre volte, e subitamente l'arnese fu ritirato nel cielo. E mentre Pietro se ne stava incerto dentro di sé di quel, che volesse significare la veduta visione, ecco che gli uomini mandati da Cornelio, avendo fatta inchiesta della casa di Simone, arrivarono alla porta. E avendo chiamato qualcheduno, interrogarono, se ivi avesse ospizio Simone soprannominato Pietro. E rivolgendo Pietro per la mente quella visione, disselli lo spirito, ecco tre uomini, che cercano di te, su via scendi, e va con essi senza pensare ad altro, impero che son io, che li ho mandati. E Pietro scese, e disse a quegli uomini, eccomi, sono io quello, che voi cercate, qual è la cagione per cui siete venuti? E quelli dissero, Cornelio centurione, uomo giusto, e timorato di Dio, e riputato presso tutta la nazione dei Giudei, ha avuto ordine da un angelo santo di chiamarti a casa sua, e intendere da te alcune cose. Allora condottili dentro li ricevo in ospizio. E il di seguente levatosi, partì con essi, e alcuni dei fratelli, che erano in Gioppe, lo accompagnarono. E il giorno dopo entrarono in Cesarea. E Cornelio raunati i suoi parenti, e i più intimi amici stava aspettandoli. E in quel che Pietro stava per entrare, andogli incontro Cornelio, e gittatosi a suoi piedi lo adorò. Ma Pietro lo alzò, dicendo, levati su, io pure sono un uomo. E discorrendo con lui, entrò in casa, e trovò molti insieme adunati. E disse loro, voi sapete, come è cosa abominevole per un giudeo l'unirsi, o accostarsi a uno di altra nazione, ma Dio mi ha insegnato a non chiamare comune, o immondo alcun uomo. Per questo, essendo chiamato, sono venuto senza difficoltà. Domando adunque per qual motivo mi avete chiamato? E Cornelio disse, sono adesso quattro giorni, che io me ne stava orando all'ora di nona in casa mia, quando ecco mi comparve dinanzi un uomo vestito di bianco, e disse, Cornelio, è stata esaudita la tua orazione, e le tue limosine sono state ricordate al cospetto di Dio. Manda dunque a Gioppe a chiamare Simone soprannominato Pietro. Questi è ospite in casa di Simone cuoiaio vicino al mare. Subito adunque mandai da te, e tu bene hai fatto a venire. Ora tutti noi siamo dinanzi a te per udire tutto quello che Dio ti ha ordinato. E Pietro aprì bocca e disse: Veramente io riconosco che Dio non è accettator di persone, ma in qualunque nazione chi lo teme e pratica la giustizia è accetto in lui. La qual cosa fece egli sapere ai figliuoli d'Israele, evangelizzando la pace per Gesù Cristo. A voi è noto quello che è accaduto per tutta la Giudea, principiando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni. Come Dio unse di Spirito Santo e di virtù Gesù di Nazaret, il quale fornì sua carriera facendo del bene, e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, conciosia che Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli fece nel paese dei Giudei e in Gerusalemme, ma lo uccisero sospesolo a un legno. E Dio però risuscitollo il terzo giorno, e fece che si rendesse visibile, non a tutto il popolo, ma ai testimoni preordinati da Dio, a noi, i quali abbiamo mangiato e bevuto con lui, dopo che risuscitò da morte. E ordinò a noi di predicare al popolo, e attestare, come egli da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui testificano tutti i profeti, che la rimissione dei peccati riceve pel nome di lui chiunque in lui crede. Mentre ancor Pietro diceva queste parole, lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano questo sermone. E rimasero stupefatti i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, che anche sopra le genti si fosse diffusa la grazia dello Spirito Santo. Impero che gli udivano parlare le lingue e glorificare Dio. Allora disse Pietro: Vi è egli forse alcuno che possa proibire l'acqua, perché non siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome del Signor Gesù Cristo. Allora lo pregarono che si restasse qualche giorno con loro. Note, 10,1, era in Cesarea un uomo, chiamato Cornelio. Questa Cesarea è quella di Palestina, e Cornelio era certamente cittadino di Roma, dove era antichissima e illustre la famiglia Cornelia. Centurione di una corte detta l'italiana. La corte era la decimia parte di una legione, e la legione in questi tempi conteneva 5, e talora fino a 6.000 uomini, onde la corte ne avea 500, o 600, e ogni corte ebbe fino a 6 centurioni. Le corti non avevano nam particolare, ma bensì le legioni, onde dicendosi di una corte detta l'italiana, vuol dire centurione di una corte della legione detta l'italiana. 10,2, religioso, e timorato di Dio, e ci avea conosciuto il vero Dio, e lasciata l'idolatria passava la vita nel fare tutto quel che conosceva di bene, non era però circonciso, come apparisce dal capo 15. Dove Pietro con l'esempio di lui prova a non essere necessaria la circoncisione. Era in una parola di che proseliti, che chiamavansi della porta, obbligati all'osservanza dei precetti dati da Dio a Noè, e i quali, perché incirconcisi, erano dagli ebrei tenuti per gentili, e non era lecito d'aver con essi commercio. 10,3 Vide chiaramente in una visione circa la nona ora e vide con gli occhi del corpo, essendo non solamente svegliato, ma applicato alla orazione, che facevasi alle 3 ore dopo mezzogiorno in tempo del sacrificio chiamato vespertino, ossia della sera, vide, dico, l'angelo del Signore speditogli da Dio per fargli conoscere quella via della salute, la fede in Cristo morto, e risuscitato per salute di tutti. 10,4 Le tue orazioni e le tue limosine. Si dice che l'orazione ha due ali per giungere fino a Dio, la limosina e il digiuno, e questo ancora accompagnava le orazioni di Cornelio, come apparisce dal versetto 30. Secondo il testo originale. Sono salite a memoria nel cospetto di Dio. Vuol dire, Dio si è ricordato delle tue orazioni e delle tue limosine, ma la frase ebrea ha origine dal fumo e dall'odore dell'incenso e delle vittime, il quale dicesi sovente nelle scritture salir verso il cielo e far sì che Dio si ricordi di colui che tali cose offeriva, e nessuno ignora che le orazioni e le buone opere erano rappresentate nell'incenso e nelle ostie che si offerivano. Vedi l'Epistola a Filippesi, capitolo 4, 18, e agli Ebrei, 13. 6. La scrittura parlando agli uomini, adopera il loro linguaggio, e perché noi siamo balbuzienti si fa ella stessa balbuziente con noi. Quindi è, che Dio, cui sono le cose tutte in ogni tempo presenti, si dice essersi adesso ricordato delle orazioni, e delle buone opere di Cornelio, perché adesso, e non prima, volle mostrargliene il suo gradimento col fargli il massimo di tutti i benefici, conducendolo alla cognizione del Vangelo. È opinione comune, che Cornelio, benché non credesse ancora, che fosse venuto il Messia, credeva però almeno implicitamente nel Messia venturo, e può anche essere, che avesse udito parlare della predicazione, e della morte del Salvatore, e desideroso di piacere a Dio in ogni cosa non poté lasciar di pregarlo continuamente a fargli intendere la verità, alla quale finalmente fu condotto dalla sua carità. 10,5. A chiamare un tal Simone e il principe degli apostoli costituito da Dio particolarmente ministro dei circoncisi, al quale avea dato il Signore in modo speciale l'autorità di sciogliere e di legare anche i vincoli della legge mosaica, è destinato da Dio ad aprire la porta della Chiesa a gentili, affinché all'autorità di un tanto apostolo più facilmente si arrendessero anche gli ebrei convertiti, nei quali regnava tuttora l'antico pregiudizio, e l'innato disprezzo delle altre nazioni, contro il qual pregiudizio noi vedremo, che ebbero molto da affaticarsi gli apostoli e tra questi particolarmente esse, Paolo, come dimostra tra l'altre la sua lettera a Romani. 10,7. E un soldato timorato di Dio. Degno perciò di essere con amore, e confidenza particolare riguardato da un tal capitano. 10,9. Sali alla parte superiore della casa per far orazione. Le case degli ebrei finivano in un terrazzo scoperto, come abbiamo detto altrove, e vi stavano volentieri gli ebrei a farvi orazione sì per essere più lontani da ogni strepito, e sì ancora per avere la veduta libera del Tempio. Circa l'ora di sesta. Circa il mezzogiorno, ora anche questa di orazione, così Pietro in quello che potea star col Vangelo, non lasciava i riti del giudaismo. 10,10. E avendo fame, bramò di prender cibo. L'uso costante degli orientali, come dei romani, era di mangiare una sola volta il giorno, e questo la sera, e se talvolta qualche cosa prendevasi all'ora di mezzogiorno era piuttosto una leggera colazione, che un desinare. Pietro adunque sentendosi molta fame, ebbe volontà di prendere qualche cosa. Fu preso da un'estasi. Legati i sensi quasi da un profondo sonno, il di lui spirito fu condotto a intendere i misteri del cielo, per rivelargli quali questa estasi gli fu mandata da Dio. 10,11. E vide aperto il cielo, e venir giù e ci vide con gli occhi dello spirito. Questo lenzuolo lo vide Pietro venire dal cielo, affinché intendesse che Dio era l'autore della libertà di tutte le genti, mediante colui che era salvatore di tutti. 10,12. Ogni sorta di quadrupedi, e senza distinzione alcuna ai mondi, e immondi. 10,13. Uccidi, e mangia e ci mangia di quello che più ti aggrada, non badar più alla distinzione posta per giusti fini nell'antica legge, perché questa distinzione non è più. E in più alto senso voleva dir questa voce, conversa, e mangia con tutti tanto giudei, che gentili, perché nessuno sarà da ora in poi escluso dalla mensa del Signore. 10,14. Niente di comune, e di impuro. Può anche tradursi niente di profano, e di immondo, imperocché comune era il contrario di santo, e chiamavano comuni quelle cose, delle quali si cibavano comunemente le genti, ma non il popolo santo, a cui molte di tali cose erano vietate dalla legge, o dalla tradizione dei maggiori. 10,15. Non chiamar tu comune quello, e non avere in luogo di profani, e di estranei riguardo al Vangelo quelli, che Dio stesso ha stabilito di purificare per mezzo della fede in Gesù Cristo. Tutto il genere umano è in un vero senso interamente profano, perché tutto macchiato di peccato, il sangue del Salvatore è quello che rende mondi coloro, che per la loro viziata origine nascono immondi. E questo è stato sparso non per i soli figliuoli di Israele, ma per tutti i discendenti di Adamo. 10,16. sino a 3 volte, e ci è cosa molto ordinaria, che certe visioni divine riguardanti cose di gran rilievo siano ripetute più volte. Vedi Act 11, 10, 2. Corint 12, 18. 10,19, dissegli lo Spirito, e lo Spirito Santo interiormente gli fece intendere quello che segue. Le altre cose precedenti gli furono dette dalla voce dell'angelo. 10,22, timorato di Dio. Adoratore del vero Dio, del Dio dei giudei, non dei falsi dei de gentili. 10,23, e alcuni dei fratelli lo accompagnarono. Questi volle Dio che fossero testimoni di quello che avvenne in occasione di tanta importanza. 10,24, raunati i suoi parenti e i più intimi amici. Li adunò, perché anch'essi potessero partecipare della grazia che il Signore voleva fargli. 10,25, e gittatosi a suoi piedi lo adorò. Presso gli orientali un tale onore rendevasi non solo ai re, ma anche ad altre persone costituite in dignità. Forse anche Cornelio considerò Pietro quasi un angelo, e lo adorò con quell'adorazione chiamata di dulia, e questo pare che accennino le parole di Pietro nel versetto seguente, «Io pur sono un uomo». 10,28, ma Dio mi ha insegnato a non chiamare e. Questo era stato insegnato a Pietro con l'allegoria degli animali veduti da lui, versa. 15. Questo muro di divisione alzato non sopra la legge di Mosè, ma sulle opinioni dei dottori del giudaismo lo toglie Pietro con la sua autorità, e col suo esempio. Dice adunque, che la immondezza cerimoniale, per la quale era già cosa abominevole per il giudeo l'accostarsi al gentile, o mangiare con esso, questa immondezza è già tolta, e che niuno sarà da ora in poi o chiamato santo solamente per essere circonciso, o dichiarato immondo per non aver la circoncisione. 10,30. Io me ne stava orando e il greco dice, io stava sino a questa ora digiunando, e all'ora di nona faceva orazione, e molti padri tra le buone opere di Cornelio annoverano il digiunare. 10,34. Riconosco che Dio non è accettatore e vedo, e tocco con mano, che Dio nel dare le sue grazie non ha riguardo alla differenza che noi fin qui ponevamo tra il giudeo e il gentile. 10,35. Chi lo teme, e il timore di Dio abbraccia tutto il quieto dovuto a Dio, e principalmente la fede, la quale non mancò a Cornelio nella maniera che abbiamo detto al versetto 4. 10,36. La qualcosa fece egli sapere e Dio aveva anche nei tempi precedenti dimostrata una tal verità e con gli oracoli dei profeti, e con gli esempi di Melchisedecco, di Giobbe, di Naamano, i quali senza essere ebrei di nazione furono amati, e favoriti da Dio, ma la più chiaramente annunziata per Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti, non dei soli ebrei ma anche dei gentili. 10,37. A voi è noto e la fama dei miracoli e della predicazione di Gesù Cristo è arrivata certamente sino a voi, di lui vi parlo anch'io come testimone con tutti gli altri apostoli di tutto quello che egli ha fatto e patito per la salute degli uomini. 10,38. Come Dio unse di Spirito Santo e di virtù e fa allusione al celebre luogo di Isaia rapportato nel capo quarto verso 18 di S. Luca. La parola virtù significa il dono dei miracoli, i quali Pietro rammenta a Cornelio, come infallibile prova della missione di Gesù Cristo, e dell'essere lui quell'unto del Signore predetto da tutti i profeti. 10,41. Non a tutto il popolo, e ci Dio volle, che la risurrezione di Cristo si rendesse manifesta non a quegli ostinati e barbari ebrei, che non avevano avuto ribrezzo di uccidere l'autore della vita, ma a un numero di testimoni eletti, ai quali non potessero negar credenza le anime docili, trattandosi di una cosa già predetta da Gesù Cristo, e chiarita, e toccata con mano da tante persone, con le quali egli conversò, e mangiò per 40 interi giorni dopo di essere risorto. 10,44. Lo Spirito Santo discese sopra tutti e per un anticipato favore Dio diffuse sopra tutti che gentili lo Spirito Santo, affinché comprendesse sempre più Pietro, e per mezzo di Pietro gli apostoli, e la Chiesa tutta, che non era già tempo di dubitare, se dovessero ammettersi al battesimo coloro, a quali comunicavasi visibilmente lo Spirito Santo. Da quello che dice Pietro nella fine del versetto 17, pare che debba dirsi che si rinnovò allora il miracolo delle lingue, che comparirono nella prima venuta dello Spirito Santo sopra i fedeli. 10,48 E ordinò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Li fece battezzare dai suoi compagni, i quali o tutti, o parte dovevano essere ascritti al clero della chiesa di Gioppe. Gli apostoli per lo più non amministravano essi il battesimo, ma lasciavano questa funzione a sacerdoti e a diaconi. Vedi 1 Corinti 1:17. Così il Salvatore lasciava agli apostoli la funzione di battezzare, Gioan 4:2. Il battesimo in nome del Signore, ovvero in nome del Signore Gesù Cristo, come alla Vulgata, è il battesimo istituito da Cristo, ma conferito con la forma insegnata da Cristo, cioè nel nome di tutte e tre le divine persone, come si è notato anche di sopra. Del rimanente con la conversione di Cornelio si cominciò a vedere l'adempimento delle profezie riguardanti la Chiesa cristiana composta non di un solo popolo, ma di tutti i popoli della terra riuniti nel culto di un solo Dio, e nella medesima fede, chiamati tutti ad essere membra di un corpo, il di cui capo è Gesù Cristo.